Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Geek Cookies. Speriamo questa volta di essere più o meno nel nostro, con la nostra cadenza, di trovarci più o meno a un tempo più decente dall'ultima volta, visti gli sbalzi che abbiamo avuti. Questa sera, di nuovo, come abbiamo cominciato da poco, avremo un nuovo ospite, quindi non parleremo sempre solamente noi tra di noi, ma avremo un ospite che ci introdurrà a quello che fa e spero che appassionerà tutti i nostri ascoltatori. Quindi, come di consueto, io sono Mario, vi parlo da Berlino e stasera in studio abbiamo i nostri consueti collaboratori, abbiamo Massimiliano. Salve, buonasera. E il buon Francesco. Buonasera a tutti. Perfetto, come vi accennavo, il nostro ospite stasera speciale, extra, che ha accettato di partecipare nonostante le differenze drastiche e drammatiche di fuso orario, è il buon Enrico Bertini. Ciao Enrico. Ciao, ciao ragazzi, grazie di avermi invitato. Grazie mille La differenza di orario non è così drammatica, potrebbe essere peggio. Questo sì, esatto, se fossimo stati sull'altra costa, in Giappone, cioè, sarebbe stato molto molto peggio. Ottimo, comunque, per chi non lo conoscesse, Enrico è uno degli host del podcast Data Stories, che io seguo, quindi dato che mi appassiona anche la data visualization, sia per lavoro ma anche per hobby, quando diciamo è legata anche un po' a quello di cui parliamo in queste puntate, quindi spero che potremmo trovare un attacco per i nostri ascoltatori per poterli appassionare a quello che fa Enrico e anche come lo tratta nel suo podcast. Insieme lo fai tu e Moritz, se non sbaglio. Moritz Stefaner. Esatto, quindi sì. Siete in due e anche voi avete ospiti in genere. Quasi sempre, sì, okay, quasi perfetto. Sempre con ospiti. Okay. No, Ogni tanto siamo solo noi due, ma in genere è quasi sempre ad invito. Ok, perfetto. Ma noi il contrario, siamo quasi sempre soli. Siamo su 10 puntate, abbiamo avuto... sei il terzo ospite. Quindi se noi abbiamo un argomento... sì, sei nelle linee. Ognuno ha il suo stile. Esatto. No, però trovo, come dire, un cambio di ritmo abbastanza interessante, perché alla fine parlano sempre di noi, le persone ci conoscono e sanno più o meno quello che pensiamo, eccetera. Quindi avere una persona, certo, che introduce anche aspetti un po' diversi è sempre interessante. Beh, certo. ma ora direi che stiamo lavorando, abbiamo 2-3 ospiti in coda per dopo le vacanze, quindi direi che cominceremo a prendere anche il giro degli ospiti. È una cosa un po' difficile all'inizio perché devi farti conoscere, poi secondo me viene tutto bene in automatico. Sì, giusto. Visto che i nostri milioni di ascoltatori, penso che andremo proprio. Ok, una cosa che ho dimenticato, come dicevo, Enrico viene dal... cioè io l'ho contattato tramite il suo podcast, quindi lo conoscevo tramite quello. Ho dimenticato di dire che sei attualmente a New York, dove risiedi, no? Sì, sono a New York. Ok, perfetto. Ok, e vabbè, facci una breve introduzione, tu di cosa ti occupi? Ecco, sì, una introduzione breve dal punto di vista tuo di... chi sei, più o meno, farti conoscere i nostri ascoltatori. Ok, sono Enrico Bertini, e sono a New York ormai da 3 anni e è interessantissimo che il fatto che tu mi introduca come host di Data Stories, perché in realtà il motivo per cui io sono qui a New York è perché sono assistant professor a New York University, dove ho un laboratorio e facciamo ricerca relativa a information visualization. E poi, diciamo, nel tempo libero, quando è possibile, sono anche uno degli host del podcast chiamato Data Stories, che è un podcast che ha ormai circa 3 anni, e dove parliamo di data visualization. Non so se devo introdurre data visualization come concetto, ecco, spiegare un po' di che cosa si tratta. Secondo me sì, perché come ti dicevo, cioè, non so esattamente il background di tutti i nostri ascoltatori, però generalmente non parliamo così nel dettaglio di software. Fino adesso abbiamo avuto solo una puntata specifica solo su Python, che da una parte è anche legata alla data visualization. Quindi faccio un'introduzione, cos'è la data visualization oggi e cos'è per te, ok? Ok. Ci sono tantissimi modi di definirlo, però diciamo in linea di massima data visualization è l'idea di usare dei metodi o delle regole per rappresentare attraverso rappresentazioni grafiche delle informazioni o dei dati che una persona ha. Questa cosa può essere sia qualcosa di super semplice come appunto, non so, creare dei chart molto semplici usando Excel, così come cose molto più complicate, interattive e che funzionano con grandi quantità di dati e con rappresentazioni complesse. Diciamo, quello che a me interessa, quello di cui mi occupo io, la parte che credo sia più interessante è l'idea di costruire applicazioni interattive che ti permettono di esplorare grandi quantità di dati per poter capire che cosa c'è dentro, diciamo. Alcune persone chiamano questa cosa visual analytics, per mettere l'accento sul fatto che la parte di visualizzazione in realtà è usata più come strumento di analisi che come strumento di presentazione. Detto questo, in realtà data visualization negli ultimi anni è diventato super, diciamo, popolare grazie al fatto che più per, come mezzo di presentazione di dati complessi per poter spiegare, diciamo, dei dati ad altre persone. Quindi, per esempio, una delle cose più famose in questo campo sono per esempio le visualizzazioni create dal New York Times, cioè, ormai sono anni e anni che creano articoli con accanto delle visualizzazioni molto ben fatte, molto interessanti. Appunto, può andare da qualcosa di molto semplice come, non so, una mappa per vedere come è distribuita, non so, adesso mi viene in Sì, mente. beh, malattie o robe del Sì, genere. malattie o ora non mi viene in mente, però insomma, una cosa molto semplice come una mappa dove si può vedere come sono distribuiti, che ne so, i negozi di Walmart, per esempio, e vedere come questa cosa è cambiata nel tempo. Così come cose molto più complesse, per esempio, qualche anno fa fecero per le lezioni una visualizzazione interattiva che faceva vedere tutte le possibili combinazioni. A seconda di quale stato avesse vinto, in quale stato avesse Sì, vinto Obama o Romney, per esempio, l'avevo quindi vista questa era una quella. cosa un po' più complessa. Quindi, diciamo, in poche parole il concetto è molto semplice: l'idea di utilizzare, di dare una rappresentazione grafica alle informazioni. Ovviamente questa cosa è sempre esistita anche prima che esistessero i computer, però col computer è diventata una cosa, ovviamente è possibile in qualche modo programmare, creare un programma o programmare, diciamo, una logica che permette di prendere i dati e automaticamente creare una visualizzazione da questi dati. Quindi Quindi creare, creare, diciamo, una scusami. maniera algoritmica a partire da un dataset, Una riesco a creare un maniera. dataset. Sì, diciamo, la cosa interessante ovviamente, non so quanto mi posso addentrare in tecnicismi, Vai, però vai. diciamo la cosa interessante, visto che voi vi chiamate geek Esatto. cookies, penso che vogliate, i vostri ascoltatori vogliano ascoltare un po' di cose Sì, geek. Però esatto. diciamo in generale uno può immaginare che ci sono ovviamente visualizzazioni che dal punto di vista della logica sono super semplici da realizzare, non so, un bar chart, uno scatter plot, un line chart o fra parentesi, non provo neanche a tradurre No, queste cose in esatto. italiano perché Scusami, ti non interrompo conosco perché, la esatto, traduzione. perché sono sorpreso perché anche io quando parlo di lavoro, dato che lavoro sempre in inglese, se devo parlare in italiano è Eh una sì, non è tragedia facile. assurda. È una tragedia, è una Quindi usa i tragedia. Sì, termini che ti sto aiutano. faticando da Vai, vai. morire. Esatto, ti dico E, questo. quindi, insomma, scusatemi se uso un po' di parole in inglese, provo a fare tutto in italiano. Cosa stavo dicendo? Appunto, però, infatti ci sono invece delle tecniche di visualizzazione che richiedono degli algoritmi più complessi. Per esempio, non so, c'è un tipo di visualizzazione che si chiama tree map, e l'idea del tree map è quella di, diciamo, dividere lo spazio dello schermo in aree, in rettangoli, la cui, grandezza, diciamo, la cui area è proporzionale alla quantità dell'oggetto che rappresenta. E poi di Ok. organizzare questi rettangoli in maniera gerarchica, così che una persona possa capire qual è anche la struttura Ho gerarchica capito. di questi dati. Quindi in genere l'input è un albero, Nota che ho detto albero, non tree. Non tre, sono bravo. E non tree. Bravo. L'input è un albero, alla base le foglie hanno dei valori e l'idea è quella di rappresentare queste foglie con dei rettangoli la cui grandezza è proporzionale al Ok. valore che c'è lì. Però allo stesso tempo questi rettangoli devono essere posizionati in modo da rappresentare non solo la grandezza, ma anche la struttura gerarchica. Ok, Difficile da quindi cioè, spiegare a voce, però. mantiene la topologia dell'albero fondamentalmente. Esatto. Ok. Allora, puoi immaginare che per poter rappresentare questa cosa su uno schermo, automaticamente ovviamente hai bisogno di un algoritmo più complesso. Ok. La cosa interessante è che poi negli anni alcuni ricercatori hanno sviluppato degli algoritmi più complessi per poter soddisfare alcuni constraint, alcuni vincoli aggiuntivi. Per esempio, diciamo, la prima volta il primo tree map che è stato sviluppato utilizzava una logica molto, molto semplice. L'idea era quella di dividere lo schermo prima in aree verticali, poi orizzontali, poi verticali, poi orizzontali e così via. Si chiama slice and dice. E poi, dopo qualche anno, alcuni ricercatori olandesi hanno sviluppato un algoritmo nuovo dove l'idea è che se tu usi questo slice and dice, il problema è che il risultato è che vengono tantissimi rettangoli che sono con un aspect ratio che è molto alto, cioè vuol dire che sono Sì. per esempio molto lunghi e stretti, per esempio. E il problema è che diciamo, comparare visualmente, fare la comparazione visuale di rettangoli che sono molto, diciamo, elongati è difficile. E quindi si sono inventati l'idea di fare, come si chiama, squarified tree map. Ok. L'idea è quella di avere dei rettangoli che sono più vicini a un quadrato possibile. E ovviamente puoi immaginare che per fare questa cosa hai bisogno di un algoritmo molto più complesso. Quindi, giusto per dare Sì. un'idea di che cosa vuol dire creare un algoritmo di visualizzazione, Un come ho detto attimo, prima, può essere sì. qualcosa di super semplice, così come qualcosa di molto complicato. Beh, suppongo che la complessità vera sia quella poi di non avere buchi nel diagramma e fare in modo che a colpo d'occhio sia anche una vista che l'occhio Significativa, diciamo. non patisca, cioè se no diventa veramente Ok, sì. difficile. Aggiungerei che ci sono dei software Esatto, per PC che fanno questo grafico con l'occupazione delle cartelle sul disco. volevo E in chiedere se era effetti, quello, sì. sì, è molto più visivo di un classico schema a barre. Oh, sì, assolutamente. Comunque, se cercate su Google Tree Map, poi mettete le immagini, sono Ok. tutti così, quindi avete molto chiaro come sono fatti. Ok, perfetto. Quindi questo. Ok, allora non abbiamo spaventato troppo gli ascoltatori, penso. No, ma Ottimo. secondo Se volete me. posso continuare. Posso Vai, continuare con vai, vai. altri algoritmi se Sì, volete. dai. Ma sai cosa? È interessante questa cosa perché noi, cioè, almeno io, quando penso a una visualizzazione di dati, mi fermo al diagramma a torta piuttosto che a qualcosa di Certo. leggermente tridimensionale, ma niente di più. In effetti, questo tree map non ci avevo pensato che è un ottimo modo alternativo per visualizzare. Francesco, sei un uomo No, devo Excel dire. praticamente. Scusa? Sei un uomo Excel, vivi dentro Excel ancora. Io sì, ma io Ok. la mia parte di grafici la faccio sempre solo dentro Excel perché ho da visualizzare tipo una tabella con 10 valori. Non è Sì, che abbia giustamente. mai analizzato queste grandi quantità di dati. Infatti, l'interessante è capire il mondo della visualizzazione dei dati com'è, oltre a quello che normalmente Esatto. uno si immagina. Sì, quello che volevo dire è, anche in relazione a quello che mi hai chiesto all'inizio, come vedi tu la visualizzazione in generale, diciamo, una cosa importante per me è, ovviamente ora ho accennato a cose tecniche, agli algoritmi, perché ovviamente è interessante e anche molto divertente, però devo dire dal mio punto di vista il vero motivo per cui per me è interessante lavorare in questo campo è il fatto che in realtà la qualità di una visualizzazione non si misura attraverso la qualità di un algoritmo, ma piuttosto attraverso diciamo, se funziona dal punto di vista visuale, no? E quindi, diciamo, c'è tutta un'altra area del data visualization che si occupa degli aspetti percettivi o cognitivi, che ovviamente è molto, molto importante e molto interessante. Quindi, dal mio punto di vista, diciamo, l'intersezione fra, da una parte, diciamo, computer science, algoritmi, scalabilità, eccetera, eccetera, insieme al problema di capire come le persone estraggono informazioni da rappresentazioni complesse, secondo me l'intersezione di questi due mondi è quello che rende quest'area molto interessante, almeno dal mio punto di vista. Ok, io documentandomi per la puntata ho dato un'occhiata anche alla tua bibliografia, ho già scaricato un paio di articoli proprio su questo, perché no, ho visto che tu ti occupi anche di questo, della percezione poi di alcuni dati, cioè per far capire agli ascoltatori se tu prendi gli stessi dati, li visualizzi con diversi algoritmi, quale di questi trasmette più informazioni all'utente fondamentalmente, o come le trasmette, Esatto. esatto, cosa per il mio lavoro Esa, sarebbe molto utile. diciamo, la cosa interessante di questo campo è che, diciamo, a questo punto abbiamo una certa conoscenza di che cosa funziona e cosa non funziona e perché non funziona. Quindi, in generale, dal mio punto di vista è molto importante per chi vuole avvicinarsi a quest'area cominciare a studiare non solo come realizzare dal punto di vista di programmazione delle visualizzazioni, ma anche capire cos'è che funziona e perché, perché altrimenti è molto molto facile creare delle visualizzazioni che le persone non sanno leggere. È ancora più facile oggi in un mondo dove appunto è facile trovare una collezione di dati con 100.000 oggetti e mapparli con una qualsiasi visualizzazione. È relativamente semplice oggi. Quello che è difficile è farlo in maniera efficace, ecco. Giusto, giusto. Che alla fine è il problema che oggi ci si pone in molti altri ambiti. Pensa allo sviluppo dei software, delle applicazioni. La parte difficile non è quella della logica che c'è sotto, ma il fatto che chiunque debba riuscire a utilizzarlo. E a questo punto il visualizzare un grafico in modo che, pur essendo la complessità dei dati molto alta, riesca a semplificare la vista e a far capire cosa significano quei dati, è un lavoro di un certo impegno, suppongo. Beh, ma c'è la ricerca, Eh c'è sì, soltanto la poi. ricerca, sì. Prego, prego. No, volevo dire che questo è anche il motivo per cui diciamo, acquisire tutti gli skill necessari non è facile, perché ovviamente è un campo molto interdisciplinare. Quindi, per esempio, nel mio campo di ricerca ci sono ricercatori che hanno un background appunto in computer science, così come psicologi o anche esperti di statistica, insomma, diciamo, questo è un campo dove persone con background completamente diversi convergono, anche cartografi, non so come si dice in italiano, penso Cartografi, cartografi, sì. cartographers, Sì. cartografi. E, quindi ecco, appunto, è un'area dove convergono tantissimissime cose diverse, tantissime. Infatti mi è fatto venire in mente una cosa. Io, diciamo, una roba in cui mi sto imbattendo ultimamente molto, e come ha fatto venire anche in mente Francesco, è ultimamente una delle parole più trend è big data. E come, cioè, diciamo, il tuo lavoro, come si interseca, o diciamo come vi ponete voi rispetto a quella nuova nascente figura di data scientist? Cioè, quindi voi vi occupate delle visualizzazioni, i data scientist in teoria anche, cioè perché loro raccogliendo tutta Oh, questa ma assolutamente, esatto. certo. Quindi è un mix. Beh, diciamo, ci sono tantissime intersezioni. Penso, alcune persone credo che vedono la visualizzazione come parte dei problemi di data science, non come una cosa separata. Diciamo, ovviamente ci sono due problemi principali. Uno è ovviamente presentare i risultati di qualsiasi algoritmo, appunto di machine learning o data mining. A un certo punto questi algoritmi devono presentare qualche cosa, no? E quindi dal punto di vista solo della presentazione è necessario trovare visualizzazioni che presentino queste informazioni in maniera adeguata. Però Però diciamo, più interessante dal mio punto di vista è come utilizzare la visualizzazione per aiutare le persone che stanno costruendo dei modelli a capire, appunto a fare in qualche modo un po' di diagnostica di questi modelli. Un altro problema che esiste è quando l'output, di una certa procedura, di un certo algoritmo è comunque qualcosa di molto vasto. E allora a quel punto è necessario avere delle visualizzazioni e delle interazioni che permettono all'utente di navigare, diciamo, dei risultati che sono molto ampi. Non so, forse dovrei fare un esempio. Per esempio, tanto per non parlare troppo in astratto, fammi pensare. Ci sono tantissime persone che sono interessate, molto molto interessate a monitorare particolari informazioni su social media come Twitter o Facebook o Reddit o insomma social media. Allora è chiaro che è possibile costruire degli algoritmi che ti aiutano a monitorare quello che viene generato in questi social media per poter estrarre le cose dalle quali tu sei interessato. Per esempio, cioè, sentiment analysis o semplicemente riuscire a fare a collezionare i tweet che parlano in un particolare topic al quale sei interessato e così via. Però è chiaro che in questi casi poi l'output generato può essere molto molto grande e in alcuni casi può essere pure dinamico. Cioè, per esempio, nel caso di social media, se una persona è interessata a fare monitoring, l'output in genere è qualcosa sia di vasto e anche dinamico. E allora a quel punto uno può immaginare che creare una visualizzazione che permetta di fare monitoraggio di dati che cambiano in qualsiasi momento e che possono essere anche molto complessi diventa complicato. Anche se dietro c'è un algoritmo che ti aiuta a selezionare i dati che vuoi vedere, no? Infatti questo penso che comincia a diventare quello che dicevi tu, questo mixa molto le skill tecniche. Da questa parte, da questo punto di vista non sono molto bravo, più i ragazzi possono parlarne, quindi sono nuovi tipi di database che possono tirarti giù i dati in maniera molto veloce, però poi tutte queste skill tecniche devi coagularle per produrre dei risultati che abbiano senso, che altrimenti se no Sì, torniamo per come design forza. negli anni 80 con tutti i siti web più assurdi e robe del genere. No, devo dire che una cosa che a me piace dire, diciamo, relativamente a data science, big data e visualizzazione, è che se è possibile risolvere un problema in modo automatico, se è possibile lasciar fare a un algoritmo, a un computer qualcosa, appunto, in maniera automatica e il risultato è ottimale, non vogliamo utilizzare la visualizzazione perché ovviamente i computer sono molto più cheap delle Giusto, persone, no? giusto. E quindi secondo me è molto importante non utilizzare la visualizzazione dove non serve. Questa secondo me è una cosa molto Che importante. va E contro ci sono dei problemi. il tuo lavoro. Prego, prego. Secondo me tu dovresti sempre pubblicizzare. Ma Usate la secondo me visualizzazione. no, secondo me no, Ok. secondo me no, perché allo stesso tempo credo invece che ci siano tantissimi problemi in cui la visualizzazione è veramente necessaria e non può, ci sono delle cose che non possono essere ancora automatizzate e quindi bisognerebbe focalizzare, credo sia una perdita di tempo focalizzarsi su cose che non hanno, che se qualcosa può essere automatizzato, non vedo perché utilizzare una persona e fargli vedere Ok, con i suoi occhi dei dati che possono essere tranquillamente manipolati da un algoritmo. Io non giusto. sono, diciamo, contro l'automatizzazione se l'automatizzazione funziona, anzi, Funziona, ok. sono decisamente a favore. Giusto. Il problema è che è difficile automatizzare, in Sì. molti Vabbè, campi è molto, molto, molto difficile. questo è lo stesso, cioè, diciamo, è un problema legato in generale al tradurre un problema di linguaggio umano, come noi ce lo prendiamo in testa, in un algoritmo, quindi in un linguaggio, in un programma, in quello che vuoi. La parte più difficile è Esatto. l'architettura e pensarne alla logica dietro e poi crearlo. Ma che sia una visualizzazione, che sia un programma di qualsiasi tipo che crea qualsiasi cosa, però la parte difficile è anche proprio quella. Quindi Assolutamente. mi hai fatto venire in mente una cosa che non ci avevo pensato. Effettivamente la visualizzazione è quello che unisce fondamentalmente la macchina, quindi una struttura algoritmica che produce, e l'utente. Cioè, quindi è l'output che permette all'utente, l'informazione all'utente in un modo più semplice, quindi è praticamente quel bridge tra le due cose. Effettivamente, se non serve visualizzazione, la macchina fa tutto internamente e tu non vedi niente, se non, cioè, non vedi i risultati fondamentalmente. Certo, Giusto, non giusto. solo, ma è anche l'input, nel senso le visualizzazioni, diciamo, interattive, che dal mio Ok. Ah, punto di sì. vista sono le più interessanti, permettono anche di dire cosa, a che cosa sei interessato, no? E Giusto. quindi, o comunque dire, non so, adesso vado un'altra volta un po' sul tecnico. Per Vai, esempio, dimmi. un'area che non è molto ben esplorata e che secondo me è molto interessante è come utilizzare sistemi interattivi per poter dare feedback umano a degli algoritmi di machine learning che possano in qualche modo essere parametrizzati da una persona, o comunque dare feedback su alcuni risultati per poter dire questo va bene, questo non va bene, e a quel punto l'algoritmo apprende attraverso il feedback che viene dato in tempo reale da una persona. Per esempio, in gergo questa cosa si chiama, tanti modi diversi, però diciamo nell'area di data mining, machine learning, c'è quest'area chiamata active learning, dove l'idea è appunto di, diciamo, la macchina inizia dicendo: questi sono, questo è quello che ho imparato fino adesso, dammi un feedback così posso imparare meglio. Non so, per esempio, un esempio che mi viene in mente che è anche affascinante è, per esempio, in biologia, un problema che i biologi hanno è quello di poter categorizzare alcune cellule, no? Loro hanno, per esempio, nei laboratori adesso ci sono dei robot che possono monitorare l'evoluzione di alcune cellule, di tantissime cellule in contemporanea, quindi centinaia o anche migliaia di cellule. Però poi, c'è bisogno di un algoritmo che possa dirti: questa cellula è in questo stato, in questo stato, in questo stato, Ok. Ah, ok, no? E sì. allora, diciamo, poter riconoscere i diversi stati di alcune cellule è una cosa difficile. E allora, per esempio, questo è uno di quei campi dove è stata utilizzata questa idea di active learning, dove il computer prova a categorizzare alcune di queste cellule, però in genere non ce la fa molto bene. E allora l'idea è dire: io te ne faccio vedere 10, tu le categorizzi e io imparo. Poi te ne do altre 10, altre 10, altre 10, Ok. finché non raggiunge un livello ottimale. E Accettabile, ovviamente diciamo. qui puoi immaginare che in questo caso hai problemi di tutti i tipi, hai appunto un problema di machine learning, un problema di visualizzazione e un problema di interazione. Diciamo, queste tre cose insieme secondo me sono molto interessanti. Eh sì, E comunque. soprattutto in questo modo fai in modo che le persone che insegnano alla macchina non debbano essere dei programmatori, nel senso che Oh, certo, assolutamente. Visualizzando le cose come loro si aspettano, loro ti sanno rispondere, perché tu non puoi dire a un biologo: scrivimi un algoritmo in C per dirmi che questa cosa funziona piuttosto che no. Se è una Certo. roba che il biologo vede e seleziona e magari amplia delle caselle di qua di là, funziona per tutti. Certo. Okay. Volevo Io chiedere. volevo un attimo. Ah, prego, prego. Anzi, no, niente, volevo Vai, vai. chiedere a Enrico se la visualizzazione dei dati viene anche usata per risolvere tramite, non so, mi viene in mente l'intuizione umana, del cervello umano, determinati problemi che magari programmarli o risolvere a computer può essere più difficoltoso. Cioè vedo la visualizzazione come un output, quindi ok, ti presento il dato in una maniera che a te è più congeniale, ma potrebbe essere anche un modo per rappresentare varie soluzioni e lasciare all'intuizione umana la scelta di quella migliore. È usata anche per Certo, questo? assolutamente, sì, assolutamente. Anzi, direi che, diciamo, soprattutto in ambito di ricerca, diciamo, questo è il, appunto, come si dice in inglese, holy grail della visualizzazione, cioè riuscire ad aiutare delle persone a fare delle scoperte attraverso la visualizzazione è, diciamo, forse il fine ultimo, o comunque il fine più alto in questo campo. Diciamo, il problema che vedo io è che in realtà, per esempio, appunto, in ambito di ricerca si parla tantissimo dell'idea che la visualizzazione dovrebbe aiutare a generare quello che chiamano insight, che non so come tradurre in italiano, Diciamo, penso in qualche modo informazioni intrinseche, scoperta, scoperta, in qualche modo una scoperta, no? Quindi tu stai esplorando dei dati e scopri qualche cosa. Però ovviamente in realtà grandi scoperte sono cose che accadono raramente, molto raramente. Però questo non vuol dire che la visualizzazione non possa aiutare comunque a fare micro, quello che uno potrebbe chiamare micro scoperte, no? Nel senso qualcosa anche di molto semplice che però non ti aspettavi, in qualche modo è una forma di scoperta, no? Quindi no, assolutamente la visualizzazione viene utilizzata soprattutto in ambito scientifico tantissimo per questi propositi, solo che è difficile da documentare. Diciamo, ci sono tante persone che utilizzano la visualizzazione nel loro lavoro scientifico, però poi è difficile catturare, documentare tutte le istanze di queste piccole scoperte. Diciamo, io nel mio piccolo, nel mio lavoro, siccome faccio tantissima ricerca applicata, quindi lavorando con persone che hanno bisogno dei sistemi che noi sviluppiamo, personalmente ho appunto aneddoti di cose che mi sono capitate sviluppando appunto sistemi per altre persone. Questo poi in seguito è una delle domande che vorrei farti, qualche aneddoto particolare che ti viene in mente. Una cosa che volevo mettere tra parentesi, che noi tra l'altro l'abbiamo buttata dentro senza chiedere se è, diciamo, palese per tutti, cos'è il machine learning in due parole? Oh, scusate, Per me è anche palese, per però me non so anche se per palese. tutti è una cosa così Ok, giusto così, beh, diciamo premetto così. che io non sono un esperto di machine learning, prima di tutto, però Ok. uso tantissime tecniche di machine learning nel mio lavoro perché ci servono appunto per poter processare i dati. Dunque, cos'è machine learning? Fammi pensare qual è la definizione migliore. Diciamo, machine learning, l'idea di machine learning è quella di costruire degli algoritmi che possano apprendere da dei dati, dei modelli che descrivono una certa realtà. Quindi, per esempio, facciamo un esempio pratico che è sempre meglio. Sempre l'esempio del prezzo delegato a San Francisco, che è quello tipico che vedo in tutti i corsi di machine learning. Sì, comunque diciamo, il modo migliore per descrivere machine learning è l'idea di costruire dei modelli che possano predire il futuro o comunque categorizzare degli elementi dei quali tu non sai qual è l'outcome. Quindi, per Esatto. esempio, fammi pensare a una cosa più. Beh, io provo. Vuoi andare con le case di San Francisco? No, quello sì. No, No, forse una cosa che può essere più vicina, è forse già appunto troppo di. complicato, però. Esatto, no, quello di cui parlavi tu, anche l'analisi di social network, per esempio, come Twitter. Un'idea potrebbe essere, dato come input una serie di tweet, io li analizzo e dico alla macchina, che ne so, questi qui, quelli che hanno la parola amore o la parola Sì, allegria, eccetera, sì. dentro sono tweet positivi. Quelli che hanno piangere, Esatto. triste, eccetera, sono tweet negativi. Quindi con questo io Sì, insegno alla sì, sì. macchina a discernere degli A oggetti che sono i miei riconoscere, tweet. Esatto, a certo. riconoscerli. Ma Esatto, diciamo, esatto. la cosa figa è l'estrapolazione. Quindi se io gli do un nuovo tweet alla macchina, riguarda, decidimi tu se questo tweet ha un sentimento positivo o negativo, a seconda poi delle parole che trova dentro, Esatto. che è uno degli aspetti. Diciamo, Quindi io posso fare, sì. la base del machine learning funziona, la maggior parte dei metodi funziona con quello che si chiama labeled data per poter costruire un modello nella fase di training, di apprendimento. Cioè, l'idea è che tu dai un sacco di esempi e quindi appunto dici, riutilizziamo l'esempio dei tweet. Tu hai un sacco di tweet e per ogni tweet sai se sentiment positivo o negativo. Facciamo semplice, solo positivo o negativo potrebbe essere una scala, ma diciamo solo Sì, vabbè, tra diciamo due valori, binario, positivo o chiaramente. negativo, che è più facile, è binario. Quindi l'idea è di dare un sacco di esempi dove l'input sono le parole che stanno all'interno del tweet e l'output è se è positivo o negativo. Allora, appunto, l'idea è quella di dare un sacco di esempi, non so, diciamo 10.000 tweet che sono precategorizzati da una persona come positivi o negativi. Una volta che il modello è costruito, se funziona bene, dovrebbe essere in grado di categorizzare nuovi tweet che non ha visto prima. E quindi, diciamo, l'idea è quella di apprendere attraverso degli esempi per poter poi categorizzare in futuro degli esempi, dei dati che il modello non ha ancora visto. Esatto. E questo tra l'altro ha anche Quindi ricadute uno può pensare fortissime. anche. Sì. Sì, dicevo, scusa se ti interrompo ancora, Vai, vai. diciamo, altri campi classici sono per esempio la medicina, appunto per poter fare diagnostica, categorizzare, che non so, appunto immagini e dire se una persona ha un dato problema o no, oppure un altro classico esempio è intrusion detection in cyber security, nella sicurezza. Giusto. Appunto, uno può pensare di fare monitoraggio continuo di una rete e attraverso questi dati capire se quello che sta succedendo è una possibile intrusione o no. Quindi categorizzazione ancora fra è un'intrusione o non è un'intrusione, e ancora si basa sull'analisi di dati del passato, dove uno può dire questa è stata un'intrusione, questa non è stata un'intrusione. Esatto. Ma in quel caso definisci cosa, diciamo, le azioni che fa un utente normale e le categorizzi rispetto alle azioni che fa un utente intrudente, diciamo, e cerchi poi di Esatto. trovare queste. Un altro esempio che mi viene in mente, che poi penso sia una delle ricadute più grosse attuali, è, diciamo, una sono i mercati finanziari, quindi cercare di Oh, predire gli andamenti, ma anche diciamo, il marketing in generale, ovviamente l'effetto dell'esempio dei tweet, per dire, se un'altra società vuole fare una campagna di marketing, fa un'analisi del sentimento prima e dopo il lancio della campagna con delle keyword specifiche e cerca di vedere se va in una direzione positiva o negativa, per dire. Quindi è una cosa che certo. potrebbe essere una ricaduta immediata. Ottimo. Sì, devo dire, adesso hai parlato dei mercati finanziari qui a New York, ovviamente questo è un campo importantissimo e ci sono parecchie aziende che fanno esattamente questo, analizzano social media per poter predire il mercato. Quindi, non so, per esempio c'è Ottimo. una startup che si chiama Quantopian, potete Sì, andare a conosco. vedere e fanno praticamente questo tipo di cose, molto molto molto interessante. Eh sì. Tra l'altro, cioè, ultimamente stavo documentando sui big data, come ti dicevo. Una cosa che ti volevo chiedere è, una cosa che ho letto spesso nel campo dei big data è che, diciamo, tu lavori nell'accademia, fondamentalmente, all'università. Una cosa che ho letto ultimamente è che molte aziende, come in questo caso Quantopian, ma anche quelle grandi come LinkedIn, Facebook, eccetera, stanno assumendo e quindi assorbendo dall'accademia una grande quantità di cervelli, cioè quindi persone che normalmente avrebbero come sfogo lavorativo la ricerca, come te, o diciamo l'insegnamento, vengono assorbiti dall'altra parte, quindi dalla parte evil, della parte oscura, perché sono generalmente pagati molto di più. Quindi è una cosa che succede anche nel campo della data visualization, oppure è semplicemente relegato alla data science? No, assolutamente, credo sia esattamente la stessa cosa. Ok. Ma io personalmente non la vedo così negativa come cosa, anzi, devo dire che secondo me il ricambio fra l'accademia e l'industria è una cosa molto salutare. Ci sono persone che tranquillamente passano dall'accademia all'industria, poi ritornano in accademia, poi arrivano in industria. Secondo me non c'è conflitto fra queste due cose. Anzi, diciamo, chi sta in accademia ha più tempo e possibilità di pensare a cose magari più futuristiche, e poi però magari si stufa di fare cose futuristiche o comunque che non siano sufficientemente applicate o ad ampio spettro. E ovviamente se uno può lavorare a Google o LinkedIn o insomma grandi o Facebook, è chiaro che il tipo di esposizione che hai, il tipo di problemi al quale ti esponi sono problemi nei quali nessuna università può avere accesso Giusto. a queste cose, no? E quindi, no, secondo me ben venga, ci sono tantissime soluzioni innovative che sono state create nelle aziende così come nelle università, e secondo me Ok. i due devono sempre avere un dialogo e anche un movimento di persone che vanno verso una direzione o l'altra, no? Credo sia molto Giusto, positivo. no, no, giusto. Io ho seguito ultimamente un po' di workshop sempre su machine learning, e la maggior parte delle persone che cioè io vengo dall'accademia anche, però tutti quelli che erano lì erano tutte persone che venivano da Amazon, LinkedIn, quindi anche la maggior parte della roba dei tool che vengono sviluppati quasi sempre nascono come sottoprogetti o progetti all'interno di aziende, perché come dicevi tu le risorse nell'accademia sono molto molto più limitate, quindi loro hanno i mezzi per produrre tool effettivi, mentre poi vengono pensati, cioè la parte più, come dire, cerebrale viene fatta da chi ha tempo per stare lì a pensarci, fare ricerca pura. Cioè, Hai ragione, Eh effettivamente. sì, insomma, potremmo parlarne per Sì, ore. giusto, Diciamo, giusto. ovviamente questo è un argomento che mi sta molto a cuore. Diciamo, quello che succede è che se tu vai in un'azienda, anche nel reparto, diciamo, di ricerca, alla fine sei esposto a dei problemi molto pratici, perché un'azienda non è che vuole spendere soldi a fare cose che sono, appunto, che non hanno un'applicazione diretta, no? Però in genere, appunto, queste aziende hanno dei problemi, sono veramente molto molto interessanti e molto grossi. Quindi, insomma, immagina per esempio il problema di scalability di Twitter. Appunto, riuscire ad analizzare delle cose in real time con una quantità così enorme di dati diventa un problema super super interessante per chi si occupa, per esempio, di infrastrutture o di basi di dati. È in qualche modo un sogno poter lavorare con una struttura di questo tipo, quindi insomma. Giusto, giusto. Ok, infatti evitiamo perché questo cadiamo poi in un ambito diverso da quello del nostro podcast, però essendo anch'io parte di questa roba Anch'io mi parte di ci ritrovo. Comunque, okay, tipo nel caso nostro, alla fine io sono come te, io sono in ricerca, però non faccio parte dell'università, mentre tutti e due i ragazzi, Massimiliano e Francesco, diciamo, sono più dalla parte tutti e due dell'industria, quindi loro si occupano anche di programmazione, qualche senso anche loro di visualizzazioni basi, eccetera, basiche. Però più dalla parte, come dire, non fine a se stessa. Cioè, secondo me, chi ha tempo di pensare, fare questa roba, può fare visualizzazione fine a se stessa. Mentre chi viene pagato per risolvere un problema, deve risolvere il problema. Può anche non visualizzare nulla, l'importante è che tu risolva il problema che ti hanno dato, fondamentalmente. Ma da parte mia posso aggiungere che io ho forti contatti nella grande distribuzione organizzata e lì la visualizzazione dei dati è importante e quello che noto è che nessuno sa farlo. Nel senso che Ah no, c'è c'è. il super software della business intelligence che tira fuori questi Excel mastodontici e la gente fa il grafichino delle vendite. Cioè, nessuno in un settore simile sa che cosa voglia dire presentare dei dati in un certo modo piuttosto che in un altro. Secondo me, con le competenze giuste, si riuscirebbe a capire delle cose che ora non si vedono neanche. Guarda, con me sfondi una porta aperta. Diciamo, se lasciami fare un po' di pubblicità, diciamo, alla mia area di ricerca o lavoro. Diciamo, in questo momento tutto quello che è big data, data science, machine learning, data mining, come lo vuoi chiamare, è molto molto popolare. Però devo dire che appunto specializzarsi nell'area specifica di data visualization, secondo me, dal punto di vista strategico, è una scelta che paga, perché il numero di persone attualmente che lavorano nell'ambito di big data è enorme. E quindi ovviamente competere con tutte queste persone diventa più difficile. Mentre dal punto di vista della visualizzazione non ci sono molte persone che sono brave. Ovviamente stanno crescendo e cresceranno sempre di più, però è un'area dove c'è tantissima richiesta, almeno diciamo qui dove sono io la richiesta è enorme, e appunto non ci sono tante persone in giro che sono sufficientemente brave per poter risolvere i problemi che le compagnie hanno. Quindi insomma c'è tantissima domanda e poca offerta. Ma Quindi, se soprattutto qualcuno. quello che penso io è che le aziende non sanno di avere questa necessità, cioè non se lo pongono neanche il problema di capire se hanno veramente analizzato tutto bene. E io lo vedo quando sento parlare delle vendite nei negozi per periodo e. Sentendoti parlare, mi sono accorto che fanno forse il 2% di quello che si potrebbe fare con la statistica di tutti gli scontrini che vengono emessi in un anno. Sai, alla fine bisogna anche fare un discorso economico, no? Diciamo, le aziende sono pronte a spendere soldi se vedono un valore in quello che appunto puoi Beh, fare per sì, loro. Quindi, è ovvio che secondo se me è io molto aggiungo. importante. Scusami, cioè se io aggiungo delle possibilità per espandersi perché scopro delle cose che non sapevo prima, funziona. Scusa se ti ho interrotto. Certo. No, no, volevo dire appunto, secondo me appunto in questo momento c'è tantissima, c'è un buco enorme e se appunto uno ha voglia di fare, di mettersi a lavorare in questo campo e soprattutto, diciamo, sto parlando del campo, diciamo, industriale, se ha capacità e voglia di mettersi in gioco e spiegare alle aziende cosa è possibile fare con questi strumenti, potrebbe avere molto successo. Anche appunto perché molte aziende sono convinto che abbiano bisogno di questa cosa e non se ne rendono conto, quindi riuscire a fare, diciamo, non solo creare un prodotto o un servizio interessante, ma anche essere capaci dal punto di vista di far capire perché certe cose possono essere utili e generare valore all'interno di aziende che ne hanno bisogno. Sono assolutamente d'accordo. Il fatto è che secondo me in Italia non c'è tanta gente che lo fa, sai? Ma anche diciamo nel mondo in generale non c'è tanta gente che fa questa cosa. E in Italia ci sono delle persone che lo fanno molto bene, però appunto poche in Italia, poche un pochino di più negli Stati Uniti, però in generale sono abbastanza poche. È un settore molto di nicchia. Essenzialmente, Sì, però sì. ha un cioè se tu conosci che c'è questo tipo di lavoro qua, sai che cioè scopri che puoi ottenere dei risultati che neanche ti immaginavi. Ah, oh, sì, assolutamente. Senti, ma in tutto questo tuo lavoro dell'analisi dei dati, ti viene in mente un qualche aneddoto simpatico, qualcosa che ti è successo e che ti ha fatto sorridere Porca. per il tipo di dati o di risultati che hai ottenuto? Sorridere, non lo so. Sorridere, diciamo, ho degli Piano, aneddoti piano. interessanti. Diciamo, recentemente mi è successo quando è stato? Un paio di anni fa, forse. Uno dei progetti che avevo qui era in collaborazione con IBM, la parte di ricerca che sta qui vicino New York. E appunto questo lavoro che abbiamo fatto con loro era appunto nell'ambito del machine learning e visualizzazione e abbiamo sviluppato una visualizzazione interattiva che permettesse a uno degli ingegneri dell'IBM di capire che cosa questi algoritmi stessero facendo. E più in particolare, cioè un ingegnere stava costruendo un nuovo sistema che permette di costruire tanti modelli alternativi di machine learning per poter poi prendere il migliore. Okay? Sto semplificando, però diciamo, l'idea è Sì. questa: invece di costruire un solo modello, costruirne tanti per poter poi comparare i modelli e capire quale funziona meglio. Il problema è che ovviamente se costruisci un sacco di modelli, poi dopo devi avere un modo per poter capire come fare la comparazione fra questi modelli. E quindi sono venuti da noi e hanno detto: come si fa a visualizzare questa cosa? E allora, diciamo, l'aspetto interessante di questo lavoro è stato che a un certo punto, dopo varie interazioni, siamo riusciti a costruire una cosa che appunto avesse senso dal punto di vista della comparazione di questi modelli. E la prima volta che abbiamo presentato questa visualizzazione a questo ingegnere, dopo che ha capito come leggere esattamente questa cosa, lui ha detto: non è possibile. E ho detto, beh, questo è quello che è, insomma. E ho detto, no, non è possibile, non può essere così. E abbiamo detto, guarda, questo è quello che abbiamo fatto, quindi. Allora, insomma, dopo un po' di discussione, ho detto, no, allora i dati che vi ho dato devono essere sbagliati, perché quello che vedo io qui da questa visualizzazione non è possibile. Ho detto, va bene, allora genera dei dati nuovi, così noi li possiamo rivisualizzare con questo strumento. Insomma, passa una settimana e mezzo e questo ragazzo ci dice: adesso ho trovato un bug, era un bug che ho trovato, adesso usate questi dati e vedrete che è completamente diverso. E invece niente, usiamo questi dati e la visualizzazione è fondamentalmente produce esattamente la stessa cosa. E quindi il ragazzo è completamente stupefatto, dice: non è possibile che, cioè, il suo modello mentale di come questi modelli funzionavano era completamente diverso dalla realtà. E quindi, appunto, insomma, non è una cosa che fa sorridere più di tanto, però è interessante dal punto di vista di quello che dicevo prima, appunto, delle micro scoperte che una persona può fare utilizzando la visualizzazione. Diciamo, in questo caso per lui è stato un po' come un momento particolare, perché appunto quello che la visualizzazione, quello che è riuscito a vedere tramite la visualizzazione dei dati era completamente diverso rispetto a quello che lui si aspettava. Bene, è interessante questa cosa qua, fa vedere che visti nel modo giusto scopri delle cose nuove. Oh sì, assolutamente, assolutamente. Beh, diciamo, nel mio lavoro capita spessissimo di lavorare con delle persone che, come tu, realizzi una cosa che permette di visualizzare i loro dati, anche se è una cosa molto, così, una bozza iniziale, la reazione è sempre sono sempre stupefatti, no? Vorrebbero abbracciarti e baciarti per quello che hai fatto. Quindi, diciamo, è sempre interessante vedere la reazione, perché ovviamente dopo tanti anni che uno lavora in questo campo, che io lavoro in questo campo, per noi alcune cose sono abbastanza banali da fare, no? Però anche cose banali possono avere un impatto enorme su persone che magari hanno appunto questo problema, anche come dicevi te, di avere tanti dati, non avere un minimo di idea di che cosa questi dati contengono. Nel momento in cui tu gli presenti anche una cosa molto semplice, che però ti fa vedere appunto con i tuoi occhi i tuoi dati, è un'esperienza interessante, insomma, non vorrei dire catartica, però Quasi, quasi, si avvicina. in molti casi devo dire la reazione è quella di: ah, è fantastico, grazie, capito? Insomma, ecco, una cosa che dico sempre è che se questo non succede uno si deve preoccupare, perché in genere la reazione è questa. Quindi se la reazione non è questa, uno deve preoccuparsi. E mi è capitato tante volte, ovviamente, anche di avere persone che non avessero questo tipo di reazione. Diciamo, per me è un test abbastanza ben calibrato. O hanno questa reazione, oppure qualcosa non va. Ok, quindi possiamo vederti come una specie di mago che tocchi i dati e produci Sì, stupefazione. una Ottimo. specie di wizard che fa queste Bravo. cose. Sì. No, Senti, diciamo, questo allora. è il lato più. Dal mio punto di vista, i momenti di massima soddisfazione sono questi. Cioè, il mio stile di lavoro è quello di fare cose per gli altri e e vedere che funzionino per gli altri. Diciamo, questa è la cosa che a me interessa di più. Ottimo, guarda, davvero penso che abbiamo più o meno parlato un po' di cose, molte cose interessanti per i nostri ascoltatori. Stasera non vogliamo tenerti tanto e siamo anche un po' stringati con gli altri ragazzi, quindi non volevo dilungarmi tanto. Se qualcuno dei ragazzi ha qualche altra domanda particolare che ho Sì, tralasciato, io Francesco, niente, Massimiliano, sì? sì, la volevo chiedere una cosa. Purtroppo per motivi vari siamo un po' veloci questa sera rispetto almeno a quanto ci sarebbe da raccontare, da dire e da quanto riesci a dirci ad ogni domanda. Niente, volevo chiudere, diciamo, chiedendoti se hai un qualcosa tipo libri, podcast, link vari. Per chi è interessato e magari, non so, in un futuro voglia intraprendere questa carriera. Certo, assolutamente. Beh, ce ne sono tantissimi. Diciamo, quello che mi viene in mente è, prima di tutto, un consiglio. Cioè, se uno vuole iniziare in questo ambito, ci sono due cose che secondo me sono fondamentali. Uno, e un po' queste due cose sono in contrasto, però uno deve trovare il giusto bilanciamento. Da una parte, non tentare di fare visualizzazione senza conoscere almeno un minimo di basi. Perché le basi, diciamo, psicologiche, cognitive, grafiche, sono semplici da imparare, non sono troppo difficili. E quindi, secondo me, avere un minimo di base in questo senso è fondamentale. E per avere questo tipo di base ci sono tantissimi libri in giro. Vediamo, ce n'è uno di Alberto Cairo, che è un professore, che sta all'università, di Miami, che non è italiano, nonostante il nome possa far sembrare che italiano e spagnolo. E, Alberto ha appunto dei libri molto interessanti. Un altro che a me piace tantissimo si chiama Stephen Few. Pure lui ha scritto tantissimi libri. Diciamo, il mio favorito è come si chiama? Show Me the Numbers. Sono libri molto semplici da leggere, però appunto introducono le nozioni fondamentali che secondo me servono giusto per non fare degli errori grossolani, perché è veramente facile fare degli errori grossolani. Secondo punto è allo stesso tempo non bisogna fare l'errore di leggere e basta, cioè la visualizzazione è una cosa che si impara facendo, quindi non c'è nessun libro che può insegnarti a fare la visualizzazione in maniera efficace. Quindi in questo modo uno secondo me deve appunto sforzarsi, prendere dei dati, ce ne stanno tantissimi online, e cominciare a fare delle cose e poi soprattutto farle vedere agli altri, non tenersele per sé, farle vedere agli altri e vedere com'è la reazione e poi farne delle altre, delle altre, delle altre, delle altre. E ovviamente ci sono tantissimi tool, sia appunto tool che permettono di programmare, diciamo il più popolare in questo momento è D3. Che è una libreria in JavaScript e permette di fare visualizzazioni che vanno direttamente girano direttamente su un browser. E il mio consiglio, se uno vuole programmare, è di specializzarsi con questa tecnologia, perché è, diciamo, in qualche modo lo standard attuale e sarà lo standard nei prossimi 10 anni, probabilmente. Però appunto ci sono anche dei tool che uno può utilizzare se invece non è capace a programmare. Quindi, per esempio, probabilmente il migliore è Tableau Software, e Tableau permette di fare tantissime visualizzazioni anche molto complesse senza necessariamente scrivere codice. E diciamo una soluzione intermedia fra queste due è quello di utilizzare il software statistico chiamato R, e R in realtà è un diciamo permette di fare tantissime cose di data analysis, quindi non è un software specifico di visualizzazione, però ha delle librerie di visualizzazione molto molto molto potenti. In particolare ce n'è una che si chiama ggplot2, che è molto famosa e permette di fare delle visualizzazioni molto complesse. Quindi insomma, diciamo, per me questi due aspetti sono fondamentali: documentarsi, perché altrimenti è veramente troppo facile fare degli errori grossolani, e da un'altra parte cominciare a fare delle cose in pratica, perché insomma la visualizzazione è qualcosa che non puoi pensare nella tua testa, devi realizzarla. Sì, puoi vedere le tue idee se possono, diciamo, essere applicate, se sono efficaci fondamentalmente. Giusto, giusto. Assolutamente. Ottimo. Ci sono Senti, poi. persone che lo disegnano anche. Ah, Un'altra possibilità è disegnare i dati. ok. C'è anche un Quindi tocco artistico. Bello. c'è anche un tocco artistico, sì, assolutamente. Bello. C'è una nostra connazionale, si chiama Giorgia Lupi, anche lei lavora qui a New York, e lei ha questo progetto interessantissimo con un'altra ragazza che si chiama Stephanie Posavec, e lei invece è a Londra, e hanno questo bellissimo sito che si chiama Dear Data. Mi sa che l'ho Ed è visto. molto interessante perché loro si scrivono credo ogni settimana una cartolina nella quale creano delle visualizzazioni di dati, di particolari dati, si mettono d'accordo che tipo di dati, ed è completamente fatto a mano. Quindi, insomma, se siete curiosi, vi consiglio di cercare. Ora non mi ricordo il Ok. link, però insomma, si chiama Dear Data. Vabbè. Se mettete Dear Data su È Lo aggiungo. dear-data.com, è bellissimo. Lo È proprio aggiungeremo, bello, sì. Bravo. Poi ci assolutamente. No, loro è bellissimo, sì. Ottimo. Poi Anzi, ci se mandi volete anche il invitare un'altra link. italiana, dovreste invitare Giorgia, perché è molto simpatica. Ottima Molto idea. Poi volentieri. ci dai anche il link dei due libri che hai menzionato, così li mettiamo anche Me li giù sono per gli segnati ascoltatori. tutti, eh? Ah, perfetto, ottimo. Vedi che ci Assolutamente. Ce ne abbiamo. stanno tanti altri, guarda. Sì, Però diciamo, vabbè, questi sono i due che mi sono venuti in mente, mi sono venuti in ma. Al mente volo, adesso, ok. Ok, ma se al si sono venuti in mente al volo. volo così a freddo, vuol dire che sono tra i migliori che ne sono Sono fra rimasti. i migliori, sì. Sono molto, Ottimo. molto semplici, non ci sono delle visualizzazioni Ok. molto complesse, quindi se uno si aspetta di vedere delle cose molto colorate o fantasiose, questi due libri non ne hanno. Quindi, Vabbè, uno deve partire ecco, dalla anche base, quindi. guardare in giro e costruire, diciamo, quello che io chiamo un vocabolario visivo è anche molto importante, perché se uno non ha in testa, se non vede degli esempi, appunto, pensa alla visualizzazione possa essere solo due Sì. bar chart o line chart, però ci stanno in realtà, ci sono migliaia e migliaia di visualizzazioni diverse, quindi appunto anche girare un po' sul web e vedere quali sono le varie soluzioni è forse una terza cosa che è utile, appunto costruire un vocabolario visivo è anche molto molto molto utile. Beh, infatti consiglierei a tutti D3 che tu hai proposto, andare a vedere la gallery degli esempi, che è spettacolare. Oh, una cosa che ogni sì, tanto sì, guardo così per piacere. Ottimo, sì, perfetto. Sì, sì. Quindi... Un'altra persona che potete vedere è il mio co-host Moritz Stefaner. Lui è un designer fortissimo. Se andate sul suo sito, lui ha dei progetti fantastici. Ok, allora lo aggiungeremo alle note. Ottimo, perfetto. Direi che abbiamo, nel breve tempo che ci possiamo concedere stasera, abbiamo riempito tutto con nozioni di qualsiasi cosa. Bello denso, mi è piaciuto. Quindi se riusciamo, se tu hai voglia, potremmo ribeccarci su qualche argomento specifico. Se poi abbiamo qualche domanda degli ascoltatori, potremmo rifare qualche altra trasmissione più specifica su qualche singolo aspetto di visualizzazione. Un'idea che avevo, che avevamo proposto, però non abbiamo avuto il tempo, era quello di parlare di sensori, sensoristi e come visualizzare i dati live, oppure tutto quello legato alla nuova Internet of Things, eccetera. Ci penseremo, certo. E realizzeremo, penso, un episodio apposito. Quindi, ok. Quando volete. Io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e della tua disponibilità e simpatia per stare qui con noi e da ignoranti e spiegarci un po' cos'è quello che fai. Beh, ci hai aperto un mondo, almeno a me personalmente. Ora avrò tempo per analizzare tutto quello che è venuto fuori ed è veramente interessante, sì. Ok, benissimo, avrei molto più da dire, quindi okay. Se volete invitarmi ancora sono ben contento di parlare. Molto con volentieri, piacere, grazie. Piacere. Perfetto, allora grazie di avermi invitato. Ma di che, grazie a te di essere venuto. Allora, ringraziamo Ciao. Di nuovo Enrico, ringrazio tutti gli ascoltatori. Ricordiamo un attimo in chiusura i contatti, brevemente. Per chi voglia contattarci, noi abbiamo come al solito il nostro account Twitter, che è quello @geekcookiecast, la nostra mail su Google, che è geekcookiespodcast@gmail.com, il nostro sito, che è geekcookies.github.io, la nostra pagina Facebook, che è geekcookiecast, e se cercate geekcookies su Google Plus potete trovarci, speriamo, anche se non lo usa moltissima gente. Ricordatevi sempre di, se avete voglia, piacere, vi piace quello di cui parliamo, di venire su iTunes e recensirci, in modo da farci salire un po' in classifica, e sempre di interagire con noi il più possibile. Quindi se avete idee, se vi ha ispirato, contattate noi, contattate Enrico, contattate uno qualsiasi di noi per domande o curiosità. Vi ricordo, come al solito, non in questo episodio ma in generale, abbiamo sul nostro sito link affiliate di Amazon, che permettono a noi di andare avanti e migliorare un po' l'hardware del nostro setting. Infatti, per esempio, il nostro buon microfono di Massimiliano è sponsorizzato dai vostri click. E come al solito do i crediti della nostra sigla, che è la sigla presa da Jamendo dei Pornophonic, la canzone Sad Robot. E come tutte le volte c'è ancora il codice sconto su U2. Se volete comprare la schedina U2, c'è ancora il codice sconto GeekCookies, tutto maiuscolo, che vi darà un buono sconto del 10%. Quindi se avete voglia di fare hardware, fare software, passate attraverso di noi, sentiteci e interagite con noi. Quindi questa penso sia l'ultima puntata prima delle vacanze, quindi io vi do un buon augurio di buone vacanze, divertitevi, rilassatevi e tornate meglio che prima e più di prima a sentirci. Con questo un saluto a tutti, un saluto a Enrico, a Massimiliano e a Francesco, se volete salutare anche voi tutti gli ascoltatori, e a risentirci. Ciao ragazzi. Io ringrazio molto Enrico, è stato veramente veramente interessante questa discussione. Vi auguro buone vacanze in un posto magari meno caldo di quello che è qui, perché si muore, e ci si risente poi alla fine di agosto o a settembre. Sì, mi aggiungo anch'io ai saluti e ringrazio ancora una volta Enrico per la sua bella chiacchierata, e spero di risentirlo presto. Ok, Grazie ciao. ragazzi, grazie di avermi invitato. Ciao. Grazie a te.